24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino, quella di Bersani, già. L'ha capita? Andiamo, farò un master in bersanese. E allora, cari italiani, eccoci qua, sono le 6:37 minuti, siamo arrivati anche questa mattina, un po' in ritardo, ma insomma avete sentito, ci sono tante notizie che tra poco commenteremo anche noi, e, ma facciamo così, apriamo subito il Parlamento, apriamo subito il nostro bar, che così andiamo a capire, è stata una notte molto molto intensa, anche perché in America avete sentito, Parlamento, abbiamo barman generosi come Santa Claus, li paghiamo noi e con quello che paghiamo voglio bere tanto da tornare storto come il dottor. Allora, alle 6:38 minuti, quando sono le 6:38 minuti in Italia, voglio salutare Alessandro Giglioli dell'Espresso, buongiorno e ben svegliato, eccoci qua. Buongiorno, ben svegliati a tutti. Come voglio salutare Alberto Forchielli, buongiorno, presidente dell'Osservatorio Asia, dove la troviamo, Forchielli? Buongiorno, sono a Pechino. A Pechino. Allora facciamo così, noi però iniziamo dall'altra parte del mondo rispetto a dove lei, perché vogliamo andare per un attimo a Boston, dove sono. Voglio salutare il professor Marco Magnani, buongiorno. Buongiorno. Che ore sono lì a Boston? Credo mezzanotte 38. Mezzanotte 38. Una Boston che va a dormire nel terrore per questa bomba che c'è stata. Com'è il clima lì a Boston? Intanto ci racconti in presa diretta che cosa è successo durante la maratona. Ma direi molto, c'è molto sgomento, c'è ancora molta incertezza, non si sa esattamente chi sia stato a mettere questi ordigni. Durante la maratona ci sono state almeno due bombe, forse una terza, che sono esplose. Continuano a scorrere immagini ora su tutte le televisioni di feriti, ci sono oltre 150 feriti, ci sono tre morti, anche oltre bambini tra i feriti, anche uno tra i morti, quindi c'è grande sgomento. Oggi peraltro era un giorno importante per Boston, per il Massachusetts, perché è Patriots Day, che è una festa per tutto lo Stato, perché ricordo la vittoria così durante una battaglia di indipendenza, un giorno che è sempre una festa celebrata dalla maratona, un giorno di grande festa, quindi un giorno altamente simbolico, era anche uno dei primi giorni di primavera, quindi in tutto il fine settimana c'erano tantissimi turisti che si erano riversati su Boston per appunto fare la maratona e per gioire in questa giornata, e quindi queste immagini che hanno sorpreso tutti. Ma sono devastanti, sono due ordigni che sono esplosi, almeno due, ci sono almeno tre morti. L'FBI, mi pare di capire, non ha ancora capito la matrice di questo attentato, cioè si parla di attentato. C'è moltissima cautela, sia da parte dell'FBI, sia da parte del Presidente Obama, che dopo pochissimo tempo dalle bombe è apparso in televisione a fare un messaggio alla nazione, sì. Ma non ha fatto alcun riferimento, c'è tantissima cautela, sia perché naturalmente è molto presto e si stanno dando la caccia ai video che ci possono essere con eventuali immagini, sia perché penso, io devo dire, avendo vissuto purtroppo a New York allora l'11 settembre, rivivo un po' le stesse sensazioni, è facile fare errori e fare la caccia alle streghe. Gli americani hanno imparato, da cui hanno parato anche da alcune situazioni come quella dell'anthrax, dell'antrace, no? Dove c'era stata la caccia alle streghe e il terrorismo internazionale, e poi si scoprì che fu di matrice domestica, e quindi questa volta c'è grandissima cautela. Però naturalmente stanno lavorando lacrimente, c'è tanto anche sgomento, l'FBI sta facendo appelli per chi fosse in zona, se chi ha fatto filmati o chi ha preso fotografie, e quindi c'è molta determinazione. Mi fa sapere qualcosa. Io intanto la ringrazio, Marco Magnani, voglio ricordare il signor Fellow alla Harvard Kennedy School of Administration, grazie, da Boston ovviamente dovevamo dare questo aggiornamento, che continueremo a dare anche durante durante i nostri giornali radio, ripeto, due bombe che sono esplose durante la maratona di Boston, ci sono almeno due morti accertati, adesso dicono dagli Stati Uniti, o due o tre, comunque diversi feriti, e il terrore che purtroppo ancora si riaffaccia sull'America, come abbiamo sentito anche poco fa Mario Platero. Qui invece in Italia che dobbiamo dire? Non so, Alberto Forchielli e Alessandro Giglioli, Forchielli tra l'altro lei vive a Boston ogni tanto, quindi voglio dire, vista da lì è brutta questa. Ah beh, la bomba è a 50 metri da casa mia, è stata. Perché io abito in Boston Street, io abito in Combe Ave, quindi è la parallela in mezzo a... No, è il problema che Obama stava spostando l'attenzione dalla guerra al terrorismo ai problemi sull'Asia, e questa cosa qui lo fa tornare sul terrorismo. Certo. Questo vuol dire anche un sacco di soldi, capito? Perché l'Homeland Security in America costa una valanga di soldi, ed è anche un freno alla crescita della produttività. E lui cercava di derubricare il terrorismo anche per risparmiare soldi sulla lotta al terrorismo, per postarle su altri bilanci, no? E questa è una brutta botta anche se di bilancio. No, ma certo, è una brutta situazione. Allora cerchiamo di capire, tanto daremo tanti aggiornamenti, ora l'America entra nella notte per quel che riguarda Boston, però le indagini saranno continue. E vogliamo parlare dei nostri caimani? Vogliamo parlare dei nostri caimani. Giglioli, oggi la stampa scrive così nel pezzo di Ugo Magri: un altro giorno è passato senza costrutto, che a me pare la fotografia degli ultimi 20 anni più o meno dell'Italia, però è così o no, Giglioli, mi sbasso il solito pessimista. Vabbè, intanto grazie di avermi incaricato di passare dalla tragedia alla farsa, che vabbè un piacere, no? Sì, Giglioli, parla tu dei caimani, dai, risparmiano la fatica. Ecco. No, nel senso che effettivamente quello che si sembra che è una tragedia, noi siamo qua a parlare di uno spettacolo che è meraviglioso dal punto di vista mediatico, no? È un teatro meraviglioso di cui fanno parte tutti, e però appunto lo dici bene Alessandro, è bla bla, in cui non è vero che non è successo niente negli ultimi vent'anni, è successo parecchio, però diciamo negli ultimi mesi è successo poco, negli ultimi giorni niente. Quello che sta succedendo è che in questi giorni, a mio modestissimo avviso, e che i partiti ostinatamente negano, e che pure mi pare stia succedendo con una estrema continuità, è una quantità senza senso di trattative nascoste di cui non sappiamo assolutamente insopportabile perché poi possiamo insopportabile la politica è quello, non è che devono parlare, no, però, però guarda, è insopportabile l'ipocrisia. Io ieri sentivo, non so, Brunetta che escludeva qualsiasi trattativa in corso, Prodi che diceva non ci si iscrive alla corsa per il Quirinale. C'è questa cosa che è molto, molto simile al conclave in questo senso, no? Cioè fanno tutti finta che non stia succedendo niente, che non accada niente, che nessuno ambisca niente. La Finocchiaro che dice non sono candidata a niente. Poi sappiamo benissimo che la reazione isterica o comunque diciamo rabbiosa che ha avuto, così come isterica rabbiosa è quella di Marini, intendiamoci, è un miserabile, nei confronti di Renzi, sono due reazioni dovute a ambizioni molto compresse, no? No, ma è chiaro. Allora, Forchielli, le faccio parlare dei caimani tra un attimo, il traffico. Poi c'è la segreteria, mi deve ascoltare la segreteria, che c'è uno dalle sue parti, secondo me, mi deve aiutare, mi deve capire dal dialetto di dov'è, dopo il traffico, quella roba lì. 24 mattino. Parlano già di nuova manovra, che non si azzardino a toccare ancora le pensioni, perché allora sarà una rivoluzione vera e propria. Quei gran coglioni di governanti, cornuti, maledetti per tutta la loro esistenza. Stefano da Roma, tassista. Il respiro servirebbe per prendere fiato, per fargli un grande sputo in faccia a tutta sta gente qui, sta marmaglia, non è gente, è marmaglia. A me, chi mi fa girare le scatole più di tutti, sono gli italiani. Gli italiani che hanno ridato il voto a personaggi che ormai dovrebbero andare in soffitta o in carcere. Allora, italiani, voi siete masochisti e ve ci sta bene di stare in questa situazione di merda, e dovete arrivare a fare la fame. Questa è gente da prendere a bastonate sul groppone, e voglio capire quando cazzo ve svegliate. come si può ipotizzare di rimettere o di proporre il nome di una persona come Prodi che ha fatto l'euro e l'ha fatto col massimo svantaggio per il popolo italiano e forse il massimo vantaggio per se stesso? È veramente scandaloso, osceno e ignobile una cosa del genere. Speriamo davvero nella Corea, come ha detto qualcuno. Questi qui, nemmeno puletti, questi qui è farlatan. Io ho 10 persone, ogni 20 secondi una decisione. Questi ne hanno 60 milioni e non decidono un cazzo. Allora, Forchielli, di dov'era questa voce qua? Perché era... Ma può essere proprio Bolognina. Bolognina. Molto Bologna, sì. Allora, devo farla... Romagna no. No. La cantilena modenese no. Poi dopo andando in là si diluisce. Quindi sì, sì. Bologna. Le devo fare questa domanda, Forchielli. Ma lei che dice sempre male dell'Italia, cioè... Allora, c'è qualcosa che salva? Salviamo le cose. Cosa salva dell'Italia, insomma, Forchielli? Vabbè, il corpo degli alpini. No! E l'unica istituzione che rispetto sono gli alpini. Ma il nostro tecnico Peter Bescapè è un alpino, lei lo sa, l'alpino è per no, me. È lì che esulta con le braccia alzate, gli alpini. Che... Gli alpini, gli, uni... dubbio, gli alpini. Beh, primo non hanno mai perso. Scusi Milan, lei ha mai saputo che gli alpini abbiano mai ceduto l'Adamello, l'Ortigara, o il Montegrappa? Sono addirittura tornati dalla Russia invitti, hanno sfondato l'accerchiamento russo a Nikolaevsk. Prima di tutto sono vincitori. Secondo, non hanno mai commesso un atto di violenza ed è un popolo di generosi. E così io vorrei gli italiani. E che facciamo? Giglioli deve mettere un generale degli alpini al Quirinale, potrebbe essere questa la soluzione. Magari. Ma non so, io la verità, tutto rispetto per gli alpini, ma da obiettore di coscienza antimilitarista non ho grande fiducia nei militari. Vabbè. Ma io salverei, se posso dire la mia, invece un'altra cosa che è un po' meno eccentrica, però forse anche in una radio economica va ricordata, cioè le reti sociali degli italiani, di cui si parla sempre pochissimo, cioè la famiglia, gli amici, il paese, guarda, io non sono cattolico ma ti devo dire anche la parrocchia, cioè tutte quelle reti sociali che sono fortissime e che non ci sono in... Io leggevo l'altro giorno un pezzo di salute, di scienza, che spiegava come, tra la scienza e la sociologia, come le reti sociali italiane sono... uno degli elementi per cui gli italiani vivono ad esempio più degli inglesi, che sono più ricchi, hanno meno debiti eppure hanno meno reti sociali. La rete sociale italiana è assolutamente l'unica cosa, una delle pochissime cose che anche in tempo di crisi regge l'urto. Regge nonostante lo Stato, nonostante la politica stessa. E allora il momento del Toto Quirinale, allora dai Forchielli, dai, ci dica di a Prodi. Prodi. Prodi, dal mio punto di vista, è il grande vincitore. Perché? Ma di che? Sì, perché in un mondo che detesta Berlusconi, il fatto che Berlusconi abbia detto tutti fuorché Prodi, fa di Prodi un eroe internazionale. Ah, è vero che lo chiama Berlusconi? Sì. È tornato a chiamarlo Berlusconi? No, Bungasconi. Ah, sì. Voglio dire, in questo momento, capito, dall'America alla Germania, alla Cina, dico, ragazzi, proprio l'unico che non vuole, è l'unico buono, è l'unico che ha un minimo di credibilità, quindi io poi... conosco bene Romano Prodi, gli voglio bene, non gli augurerei 7 anni di Quirinale. Lo dice perché lo conosce, allora. Sì, è un tifo. Lo conosco da 40 anni. Allora fa il tifo, non vada. Ma no, io faccio il tifo perché non vada, perché a questo punto è integro, c'è la faccia pulita, è l'uomo che Berlusconi non ha voluto. Si farà in inciuccio, per cui verrà fuori un mezzo presidente che nessuno cagherà in vita, che verrà mal cagato da tutti nel mondo, capito? Perché il compromesso sarà a ribasso, per cui verrà una mezza persona, una mezza sega, per cui va bene così. Ma come, amico, io me lo vedo a Boston, perché lui insegna alla Brown, a Providence, che sono 50 minuti di treno. Me lo vedo quando viene in Cina, me lo vedo quando vado a Bologna. Ma cosa vuol che vada lì in mezzo a quelle lavanderie lì dalla lavanderia di chiunque di Bersani che aveva detto che smacchiava il giaguaro, poi dopo ci ha ridato un giaguaro in pelle e ossa. Cioè praticamente Forchieri le dice chiunque andrà al Quirinale sarà una mezza sega, perché una mezza sega, frutto. Ma è destino, perché Giglione, hai capito ma qua guarda, Forchieri, devo dirti la verità, il lodo mezza sega è abbastanza probabile, sono abbastanza propenso a riconoscere che sia lo scenario più probabile. Adesso non vorrei fare dei nomi che poi dicono è una mezza sega, ho diffamato quello che è una mezza sega. Però io vedo i nomi che circolano del probabile inciuccio e non sto parlando. Io credo che Prodi sia un po' in una situazione stramba, no? Perché in un inciuccio non andrebbe bene perché è troppo anti-berlusconiano. In un accordo con il Movimento 5 Stelle abbiamo visto che ieri Casaleggio ha fatto un outing abbastanza definito su questo. Quindi lo vedo un po' brusco. Invece i nomi dell'inciuccio sono quelli, diciamo, del Lodo Forchielli, Amato, sì, Marini e via dicendo. E quelli sono i nomi dell'inciuccio, sì. I nomi del Lodo Forchielli, per non dirlo direttamente. Posso fare anch'io il mio auspicio personale è per Stefano Rodotà, che pure è quello che conosco io invece Rodotà. Da molti anni è una persona straordinaria, spero che alla fine riescano a trovare un colpo di reni per uscire dal Lodo Forchielli. E allora, ecco, Lodo Forchielli in 30 secondi che devo chiudere il Parlamento, la questione, i grillini ne stanno ancora aggrappati? No, l'hanno mollato. No, perché adesso sto molto attaccando Bungasconi, per cui perché il mondo ancora non conosce Grillo, capito? E quindi io non voglio farglielo conoscere. Adesso sto cercando la soppressione di Berlusconi. La soppressione, odio questo accordo nefasto. No, come la soppressione? La soppressione, no. La soppressione dell'accordo, lei vuole, non la soppressione di Berlusconi. Sì, no, questo inciuccio della sinistra con Bungasconi è maledetto. È maledetto per l'immagine del paese, per il futuro. Poi il governo starà in piedi due secondi. Si vota a luglio invece di andare al mare. Va bene, vi ringrazio. Intanto, nel frattempo, Alberto Forchielli la ritroveremo prestissimo, spero. E anche Alessandro Giglioli dell'Espresso, il suo Piovono Rane. Lo trovate così anche su Twitter. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. E allora siamo qua alle 7:23 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo di politica, di Toto Quirinale, allora in questo stallo totale della politica. Ci occuperemo di quello che succede al Quirinale, o meglio, il successore per il Quirinale. Allora, andiamo subito a sfogliare i giornali che aprono, come comprensibilmente capite, sul attentato che c'è stato a Boston. È martedì 16 aprile, i titoli, non si sa ancora la matrice di questo attentato, ma due bombe esplose all'arrivo della maratona di Boston. Allora, il Corriere della Sera, bombe alla maratona, terrore in America, Repubblica, terrore negli Stati Uniti, bombe sulla maratona. Il Fatto Quotidiano, Boston, bombe alla maratona, torna l'incubo terrorismo. Libero, bombe sulla maratona, strage a Boston, ma c'è anche l'apertura politica che è faida in famiglia per una poltrona, cioè sulla politica. E poi ancora il Messaggero, Boston, terrore alla maratona, Avvenire, terrore e sangue sulla maratona, La Stampa, Boston, bombe alla maratona, Il Secolo XIX, sangue sulla maratona di Boston, e il Quotidiano Nazionale, America nel terrore. Le aperture invece di diverso taglio, Il Sole 24 Ore apre su Draghi che striglia le banche, tassi alti. Il Giornale invece sulla guerra civile a sinistra, la politica, miserabile PD, si usa questo aggettivo che Anna Finocchiaro, miserabile, ha utilizzato nei confronti di Matteo Renzi. Nel PD è scontro su Renzi, apre così anche l'Unità, mentre il Manifesto, preso per il colle, c'è la foto di Bersani. Come nella peggior tradizione democristiana, la partita del Quirinale scatena nel PD la guerra per correnti.

Ora il dramma è anche di chi ha avuto il coraggio di testimoniare contro gli autori di quel delitto. Paolo Colonnello racconta sulla Stampa, pagina 19, la storia dell'odissea dell'elettricista milanese che nel 2010 ruppe il muro dell'omertà. Sfidai gli assassini del tassista, ma oggi non testimonierei più. Racconta Colonnello, come diceva Don Abbondio, uno il coraggio non è che se lo può dare. Se tornassi indietro non so se rifarei quello che ho fatto. Dopo quella testimonianza vivo con gli antidepressivi, faccio fatica a dormire, ho perso il lavoro e ora anche la casa. Gianluigi Ricotti è l'unico che a 34 anni, padre di una bambina di 2, prese il coraggio a due mani perché vide, mentre stava fumando una sigaretta sul balcone, quell'aggressione e decise dunque di testimoniare. Nonostante dal primo giorno gli aggressori gli bruciarono la macchina di notte perché avevano visto che lui era stato testimone, poi andarono sotto casa sua, chiesero al padre di poterlo incontrare, lui visse nella paura, poi perse il lavoro perché faceva l'elettricista ed essere chiamata a fare riparazioni quando in zona ti vedono come un appestato non è facile. Allora ha preso moglie e figlia, ha deciso di trasferirsi, andare in campagna, a 500 euro al mese ha trovato un piccolo appartamento dignitoso, ma venerdì scorso, dopo aver perso il lavoro, si è presentato all'udienza per lo sfratto e il giudice non ha potuto far altro che confiscargli anche la casa. E insomma, ora si trova, dice, abbandonato da tutto e da tutti, vittima di quella scelta coraggiosa di testimoniare di aver visto quello che aveva visto. Sfidai gli assassini del tassista, oggi non testimonierei più. Lo trovate sulla Stampa, pagina 19. Eh sì, è anche questa una fotografia di questo paese. "24 Mattino", la politica nel tunnel. Eccoci qua, siamo le 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, dobbiamo parlare di quello che sta succedendo in Italia. Teniamo ovviamente sullo sfondo durante tutta la giornata quello che è successo purtroppo in America, l'attentato che c'è stato durante la maratona di Boston ieri. Se ci fossero delle novità ve le daremo in tempo diretta, in tempo reale. Al momento sono ancora 3 le persone accertate morte, anche se ci sono diverse persone, almeno 8, raccontava poco fa la CNN, in condizioni critiche negli ospedali. L'Italia, la politica italiana è, come dire, oggi racconta Ugo Magri, come dicevo prima in rassegna stampa, in una situazione più che di stallo, di immobilismo. Ieri Ugo Magri scrive: a che cosa si sono dedicati i nostri prodi eroi? E ovviamente parlando dei politici. Un altro giorno è passato senza costrutto, senza un'intesa, senza il barlume di un'intesa. Allora, ci sarà un qualche barlume di un'intesa, almeno sul nome del Quirinale? Ne vogliamo parlare con l'onorevole Nunzia De Girolamo del Popolo della Libertà. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei e chi si ascolta, buongiorno. Saluto anche Roberto Reggi, che è renziano doc, è stato il portavoce delle primarie per Matteo Renzi. Buongiorno Reggi, benvenuto e ben ritrovato. Buongiorno, grazie, buongiorno. Intanto chiariamo subito la notizia che tiene più banco, titolo dell'Unità oggi, è scontro nel PD contro Renzi. Allora, che succede questa disfida? Volano stracci, volano anche aggettivi stile miserabile di Finocchiaro a Renzi. Che sta succedendo? Che state combinando nel partito? Beh, non è una grande novità che ci sia una conflittualità nei confronti di Matteo Renzi, che ha, secondo me, il pregio, per alcuni un grave difetto, di dire le cose che pensano tutti. Le dice in maniera chiara, molto franca, e questo fa arrabbiare un sacco di gente che invece vorrebbe continuare a utilizzare quelle vecchie liturgie secondo le quali all'interno di un partito non si può mai dire la verità apertamente, ma bisogna dirla sempre per interposta persona o comunque parlando a nuora, perché suocera intenda, insomma. Mi sembra che Matteo stia dicendo quello che pensano tutti. Bisogna far presto e bisogna trovare un Presidente della Repubblica che sia il migliore possibile, quindi che abbia un profilo al di sopra di tutte le questioni di possibili mediazioni con finalità successive. Lei a chi penserebbe? Perché sa, dire facciamo presto, tutti lo dicono, facciamo presto, e la soluzione sarebbe, il nome che ha in mente Roberto Reggi quale sarebbe? Io l'ho già detto più volte, per me il profilo di Romano Prodi è il profilo ideale in questo momento, perché ha una caratura internazionale riconosciuta da tutti e ci farebbe far bella figura ovunque, avendo lui una professionalità, avendo ricoperto ruoli come la presidenza della Commissione Europea, per esempio, ma non solo, che tutti quanti appunto non avrebbero nessun dubbio a riconoscere una buona rappresentazione. Romano Prodi, già un nome molto chiaro. Prima, guardi, è arrivato un messaggio straordinario, lo prendiamo come battuta di un ascoltatore, io l'ho rimesso anche su Twitter, dice: spero che venga scelto Prodi perché mia moglie ha detto vado all'estero se viene nominato. Questo è un ascoltatore, De Girolamo dice: vedi, già sulla questione Romano Prodi credo che non faremo in questo tre quarti d'ora di trasmissione un millimetro di passo in avanti rispetto a questo stallo, mi sembra, Nunzia De Girolamo. Perché ce l'avete contro Prodi? Cioè, cosa vedete in Prodi che porta Berlusconi a dire Prodi al Quirinale, tutti all'estero? Innanzitutto, per noi quei due anni di governo Prodi sono stati due anni assolutamente fallimentari per il paese, e riteniamo che oggi candidare Prodi al Quirinale significa chiudere ogni forma di dialogo con il Popolo della Libertà e provocare il Popolo della Libertà. Onestamente, noi chiediamo un nome di garanzia, un nome che possa rappresentare tutti, non un nome che sia prettamente espressione del Partito Democratico, ma soprattutto di un progetto alternativo all'area moderata, all'area del Popolo della Libertà. Non è mai stato, diciamo, un Presidente del Consiglio con il quale noi abbiamo avuto accordi né ideologici né in termini programmatici. Noi ricordiamo l'inserimento nell'euro e cosa ha significato per noi. Non abbiamo un buon ricordo, insomma, di Romano Prodi, tutto il rispetto per la persona, ma a questo punto, se il Partito Democratico decide di candidare Prodi, noi candidiamo Berlusconi, perché provocazione per provocazione svestiamo i panni delle persone responsabili, dialoganti, nell'interesse del paese, e continuiamo a dividere il paese in destra, sinistra, in buoni e cattivi, in berlusconiani, anti-berlusconiani. Però mi dica il nome lei, no, perché Reggi il nome l'ha fatto, il profilo sarebbe per me Romano Prodi. Voi, ma io su non quale... so neanche a questo punto se Romano Prodi, visto che Matteo Renzi si è espresso in maniera diversa da Reggi, nel senso, ha più volte detto che voleva un governissimo, perché... No, non è vero che ha detto governissimo. Sì, no, ha detto che voleva un governo immediatamente. Per avere un governo immediatamente, Reggi, l'unico modo è trovare qualche tipo di Ma lui ha detto un governo di scopo del presidente che faccia le cose più urgenti e si torni al voto. Sei mesi. È una questione di linguaggio. Ha appena detto che dobbiamo essere giovani, diretti, e non come quelli della Prima Repubblica che si sono scagliati dando del miserabile a Renzi. Allora proviamo ad essere anche noi la Terza Repubblica, diretti e immediato. Un governissimo dove l'accordo è PD-PDL, perché tanto Movimento 5 Stelle non si accorderà mai con il Partito Democratico. Penso che vi siete umiliati abbastanza con lo streaming, rincorrendo persone che non vogliono assolutamente il dialogo, né poi partiti, né tantomeno con Bersani. Quindi credo che alla fine durerà 3 mesi, 5 mesi, un anno per le riforme immediate, per la legge. Però è un governissimo. Sì, chiamiamolo come si vuole, diciamo un governo insieme. E questo, la scelta di Prodi sarebbe, lei dice, una provocazione, cioè non è possibile passare. Non mi sembra un pericoloso estremista Prodi, voglio dire, Nunzia richiama la presenza di un moderato. Beh, insomma, mi sembra che Prodi abbia queste caratteristiche. Ma però se a Berlusconi non va bene, non va bene, cioè non è che ci potete... Volete entrare nelle cose del Partito Democratico, ma almeno al PDL fate gli affari vostri. A Berlusconi non andava bene neanche Napolitano, mi sembra che abbia cambiato idea, no? E non vedo perché non possa cambiare idea su Prodi, hanno profili molto simili. Intanto Reggi, la questione è questa: lei sa che ieri si sono incontrati Renzi, adesso non mi dica che non sa niente di quello che si sono detti Renzi e Berlusconi, che è già ridacchia. L'unica versione ufficiale che è venuta da questo incontro è che Berlusconi ha chiesto a Renzi quanto sei alto, e Renzi gli ha risposto 1,81. Che bel resoconto di questo incontro, no, tra Renzi e Berlusconi. Di che si va a parlare con Berlusconi, Reggi, per un'ora? Ma intanto non hanno parlato per un'ora, e poi hanno parlato in presenza del prefetto, che quindi potrebbe dire lui, che è stato testimone, ma sicuramente non si sono appartati, come ha fatto la battuta Matteo. No, quello che è certo è che avranno sicuramente parlato anche di politica, ma giustamente Matteo dice non sta a me fare la proposta, non sono neanche in Parlamento, io faccio il sindaco. È chiaro che a me piacerebbe un profilo di grande livello internazionale. Se Berlusconi in questo profilo non si riconosce perché ha bisogno di qualche rassicurazione di altra natura, io questo non lo so, però non credo che debba essere cioè che, che rassicurazione? Ma non lo so, voglio dire, adesso quello non lo so, adesso io spero di no, che, anche perché non si può condizionare la scelta del Presidente della Repubblica a interessi personali di nessun tipo, né processuali, né per avere incarichi di governo, né di altra natura, e si sceglie il miglior personaggio possibile che possa rappresentare il paese per i prossimi. E ho capito, per lei è Prodi, però le sta dicendo Nunzia del Girolamo, e lo ha detto chiaramente anche Berlusconi, che però sì, se Prodi è proprio il peggio, non so, di questa rosa di nomi per Berlusconi, non è che potete entrare nella testa di Berlusconi e convincerlo al contrario. Alessandro, lei mi ha chiesto il mio parere, è chiaro, non è che posso inventarmi altro, cioè posso anche dargli un profilo così, voglio dire, non è che esiste solo Prodi. No, ma infatti vediamo se non so, Nunzia del Girolamo oggi sui giornali raccontano che potrebbe essere per Berlusconi il meno peggio tra virgolette dei nomi che circolano Giuliano Amato. Allora, Giuliano Amato potrebbe andare bene? Sicuramente non è Romano Prodi, quindi un'apertura su Giuliano Amato immagino che ci sia e che possa essere un nome che Berlusconi può ritenere di garanzia. Ma non è solo Giuliano Amato, in ogni caso purtroppo non spetta a noi, quindi diciamo siamo in attesa di ricevere questa rosa di nomi da Bersani. Abbiamo dato la nostra disponibilità, abbiamo dato disponibilità su tutto, non cerchiamo coperture, tanto sappiamo che in questo paese le coperture non le può dare nessuno, su, quindi non prendiamoci in giro raccontando. Berlusconi lo fa per avere delle coperture, forse l'unica cosa che converrebbe in questo momento a Berlusconi e che ci chiede il nostro elettorato è andare al voto. Nonostante questo noi non ci stiamo facendo condizionare né dalla richiesta del nostro elettorato né dalle esigenze di partito, perché altrimenti noi dovremmo chiudere ogni forma di dialogo. I sondaggi ci danno vincenti e dire guardate, voi avete un sacco di problemi nel Partito Democratico, ce ne avvantaggiamo e andiamo a votare. Noi invece stiamo dicendo in maniera responsabile, perché in queste ore ci sono imprenditori che si suicidano, famiglie in difficoltà, giovani che non lavorano, tutti i problemi che non devo stare qui ad elencare perché sono noti a chi parla in questo momento e a chi ci ascolta. E noi ci siamo resi responsabili del dialogo. La rosa dei nomi non arriva, la disponibilità al governo nemmeno, noi non sappiamo più cosa fare. Ma la rosa dei nomi sarà quella, cioè dove, nel senso, sono quelli che girano, Marini, Finocchiaro, così faccio arrabbiare un po' Reggi. Marini, Finocchiaro, noi non abbiamo la presunzione di metterci nella testa di Bersani, a differenza loro che provano a mettersi in quella di Berlusconi. Questo è abbastanza chiaro. Allora, tra 5 minuti riprendiamo con l'onorevole Nunzia del Girolamo, con Roberto Reggi. Ci sarà anche con noi anche un onorevole che accumula 4 cariche. Ieri il Fatto Quotidiano ha detto: ma sapete che tra i 1.700 grandi elettori ci sono anche alcuni che sono incompatibili chiaramente per Costituzione? Come possono delle persone che sono incompatibili per Costituzione, perché tengono magari 2 poltrone, tra cui una è il Parlamento, una è il parlamentare, l'altra quella di consigliere regionale, eleggere colui che è il garante della Costituzione? Addirittura oggi su Libero si racconta che questo potrebbe essere una causa di invalidamento del voto, chi lo sa? 24 mattino. Eccoci qua, allora alle 8:36 minuti, il nodo Quirinale che terrà banco tutta la settimana, chissà, forse anche la settimana prossima, se non arriverà la nomina nelle prime votazioni a partire da giovedì. Siamo con Nunzia De Girolamo del Popolo della Libertà e Roberto Reggi, che ha coordinato la campagna elettorale delle primarie di Matteo Renzi, dunque Partito Democratico. Allora, 2 ascoltatori, Romeo da Catania, buongiorno Romeo. Buongiorno. Che dice lei? Tanto complimenti per la sua splendida trasmissione. Addirittura, non volevo dirle una cosa di cui tutti ignorano, è che il problema non è di fare il nuovo governo, è che questi partiti probabilmente litigano apparentemente perché non si sentono di avere una ricetta per riprendere il governo della nazione. E il problema non è che non abbiamo governo, è che continua quello di Monti. Vabbè, e che dovrebbe fare? E lei lo sa che dal 1 maggio Equitalia può prendere, se è creditrice, può prendere tutto lo stipendio e tutta la pensione? Mm. Può chiedere alla banca di dare, senza avvertire l'utente, svuotare il conto? E questo, lei dice, e in questa situazione i politici brancolano nel buio, non sanno che pesci pigliare, dice. E per questo lasciano ancora la banda di rapinatori dell'11 novembre. Vabbè, ma lei ce l'ha più con Monti, però ce l'ha anche con questi che non sanno come uscire da questa impasse. Ma è certo, loro non sanno, loro lasciano sempre Monti. Il problema è che bisognerebbe togliere il governo di Monti. Ma mettere chi? Cioè, se non si può stare senza governo finché non si trova una soluzione. Ma per dire, si può dare un incarico, non so, al presidente del Senato, un incarico pro tempore. Ma, caro Romeo, si è provato. Adesso si è deciso che la priorità è eleggere il capo dello Stato. Vuole una ricetta per risolvere i problemi della nazione? Ce la dia togliere la ricetta. Gli studi di settore e togliere il redditometro. Togliere il redditometro e gli studi di settore. Va bene. Grazie Romeo. Per questo però ci vuole appunto un governo legittimato e un Parlamento che lavori su questo. Giovanni da Roma, buongiorno. Buongiorno. Sì. Buongiorno, volevo chiedere, volevo fare, diciamo così, una piccola osservazione rivolta soprattutto a Reggi. Sì. Praticamente se si rende conto Reggi e diciamo gli amici di Renzi di stesso, cosa? Ma penso che se ne rendano conto che nei cittadini, diciamo nell'elettorato comune, gli spettatori della politica, viene percepito Renzi come esterno al PD, che a sua volta lo reputa esterno al partito. Quindi dice che ci sta a fare lì? Lei vuol dire? No, non sto dicendo questo. Sto dicendo che se innanzitutto se ne rendano conto loro, è che almeno la metà degli elettori del PDL, del centrodestra, sì, almeno la metà, sì, secondo me anche di più, lo vorrebbe come il candidato premier, sarebbe il candidato premier. Lei sta dicendo in gran parte del centrodestra. Vabbè, lei, Giovanni, sta dicendo la questione che si dice sempre da tempo, cioè si rende conto lei, Reggi, che Renzi è considerato un corpo estraneo al PD e che molti del PDL guardano a Renzi come stringendo anche l'occhio? Non so il passo successivo dove vuole arrivare Giovanni, non lo so, ma insomma è la vecchia questione, Reggi. Ma in realtà la gente che incontro io non la pensa così. Io incontro, diciamo, i vertici del partito che la pensano così, che considerano Matteo Renzi un corpo estraneo. Ma la gente comune, sì, ma molti del PDL, del PD, e la gente che vota il PD non lo considera un corpo estraneo. Sì, però non se lo sogna mica Giovanni che molti del PDL dicono, guardi che no, è vero, che molti del PDL fatto, dicono, beh, Renzi sarebbe... Io penso che sia un fatto positivo. Renzi non ha mai fatto mistero fin dall'inizio di voler parlare a tutto, soprattutto ai delusi del PD, ma anche del PDL, che hanno motivo per essere delusi il doppio rispetto a quelli del PD, no? Per cui il fatto che ci sia tanta gente comune che non ha votato PD fino a ieri, che voterebbe volentieri un governo con premier Matteo Renzi, secondo me è un fatto positivo, perché se si vuol rappresentare la maggior parte degli italiani non si può parlare soltanto al 30% del paese. Senta, onorevole De Girolamo, ma voi Renzi, me lo dica lei, Renzi lei come lo percepisce? Lo guarda con... Stupisce il fatto che il Popolo della Libertà o comunque i nostri elettori possano apprezzare un leader carismatico del PD che non c'è mai stato, come può essere Matteo Renzi. E invece non ci si dovrebbe stupire, perché noi non siamo affetti dall'essere anti qualcosa o anti qualcuno. Siamo abituati in questi anni all'anti-berlusconismo, perché la sinistra, che non è riuscita ad avere un leader per più di un tempo ristrettissimo, ha fatto la guerra da sempre a Silvio Berlusconi. Noi questo problema non ce l'abbiamo, il leader ce l'abbiamo, l'abbiamo sempre avuto, non abbiamo avuto dubbi sulla personalità di Silvio Berlusconi ed apprezziamo il leader carismatico di un'altra parte, ritenendo che sia una persona adatta al dialogo, perché è incapace, come ha dimostrato in più interviste, in più interventi, di superare anche questa divisione ideologica che ha bloccato il paese fra berlusconiani e anti-berlusconiani. Io ho apprezzato un'intervista di Renzi al Corriere, nella quale dice una cosa molto simile alla nostra: noi vogliamo cambiare l'Italia, non gli italiani. Non abbiamo la presunzione di dire ci piacciono solo alcuni tipi di voti, ma gli altri voti che sono espressione del centrodestra li guardiamo con disprezzo. Ecco, questo è ovvio che fa guardare Renzi con, diciamo, in un modo differente rispetto agli altri. Con ottimismo. Renzi dice anche che vuol mettere in pensione Berlusconi, però. Devo anche dire, vabbè, ma Renzi lo deve dire, noi non abbiamo paura, gliel'ha detto anche Berlusconi ieri. Abbiamo sfidato molti leader della sinistra e oltre e abbiamo sempre vinto. Aspettiamo questa sfida anche con Renzi, saremo contenti di averla, almeno con una persona con la quale si può dialogare. Poi però ha ragione il lettore che è intervenuto, perché secondo me Renzi dalla base del Partito Democratico non è percepito come uno di sinistra, non solo dall'establishment. Se vediamo i risultati delle primarie che loro tanto esaltano, la base ha votato Bersani. Infatti crea molto fermento. Però De Girolamo Reggi, vi voglio presentare un senatore del Popolo della Libertà, si tratta di Domenico De Siano, che ci ha raggiunto e che saluto. Buongiorno senatore, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, la questione è questa, è molto semplice: tra i 1.007 grandi elettori che sceglieranno il capo dello Stato, colui che è garante della Costituzione, ci sono alcuni anche che sono incompatibili per Costituzione. Uno è lei. Allora, Domenico De Siano, lei è senatore, consigliere regionale della Campania, e già questo è vietato per Costituzione. Posso parlare? Sì, certo, e come no. Allora, lei non è informato in maniera corretta. Perché si è dimesso? Perché io mi sono dimesso il giorno 10 di aprile. Se mi fa parlare, Io mi sono dimesso da consigliere regionale il 10 di aprile, le dimissioni hanno avuto efficacia il 12 di aprile perché c'è stata la surroga in consiglio regionale. Però mi scusi. Quindi a tutti gli effetti, a tutti gli effetti io non sono più consigliere regionale, ho eliminato di mia spontanea volontà la incompatibilità che è prevista dalla Costituzione tra consigliere regionale e senatore. Ma perché ieri il fatto quotidiano, a parte che lei oltre a questo è anche consigliere provinciale della provincia di Napoli, che però è decaduta dal consiglio, c'è ancora, e consigliere comunale all'Acqua Merda in un comune al di sotto di 5.000 abitanti, e sono cariche che non sono incompatibili con la carica di senatore della Repubblica, e non costano nulla allo Stato italiano. Quindi però per il momento a 4, lei dice 3. Perché il fatto quotidiano ieri ha raccontato che lei ha scritto di rinunciare alla carica di consigliere regionale, ma scritto al Senato? È vero? Allora, guardi, in maniera estremamente corretta, io ho partecipato alla segreteria generale del Senato per come va fatto la comunicazione che optavo per la carica di senatore e non per la carica di consigliere. Ma l'ha scritto anche alla regione? Un attimo solamente. Contestualmente ho protocollato la lettera di dimissione alla segreteria generale del consiglio regionale. Tant'è che il Consiglio regionale ha provveduto in data 12 ad effettuare la surroga in Consiglio regionale. Voglio dire, per quale ragione bisogna creare un caso quando non c'è il caso? Perché di fatto con atti concreti è stata eliminata qualsiasi tipo di incompatibilità. Incompatibilità costituzionale, però, ma perché tutta questa smania di poltrone? Mi scusi. Allora, guardi, le spiego subito. Io sono stato proclamato senatore della Repubblica in data 15 di aprile il 15 di marzo. Io nel giro di meno di un mese ho provveduto immediatamente a fare l'opzione. Avrei potuto aspettare come tanti altri stanno aspettando per verificare che cosa succede nel prosieguo della legislatura, se finisce, se va avanti o meno. Io in maniera estremamente corretta, in quanto candidato e in quanto eletto, ho optato in maniera estremamente Un'altra domanda, però è anche consigliere, è vero che non sono incostituzionali le nomine, allora, consigliere consigliere comunale. Io sono consigliere comunale. Io sono consigliere comunale in un comune al di sotto dei 5.000 abitanti. E al pari mio ci saranno centinaia di casi. Ma è anche consigliere provinciale lei? Sono consigliere provinciale, ma le ripeto, sono cariche che non sono incompatibili. Ma ho capito, mi scusi, non con mi scusi, la carica di senatore. E tra l'altro, mi scusi, ma sono cariche in maniera estremamente corretta, dobbiamo dirlo a coloro gratuite, gratuite. Sono cause a titolo gratuito, nel senso che io non percepisco alcunché. No, non si fermi, ho capito. Si fermi un attimo, senatore. C'è le informazioni sul traffico, poi le ritorna a fare la la domanda. Lei mi risponde sempre che non sono incompatibili costituzionalmente, sono il primo io a dirlo, cioè le cariche di consigliere provinciale, consigliere comunale e senatore. Ma la domanda che le rifarò tra un attimo è questo: perché questo cumulo di poltrone? Cioè, voglio dire, uno se fa un lavoro, come fa a fare quattro lavori contemporaneamente o tre? Eccoci qua. Allora, insieme all'onorevole Nunzia De Girolamo, Roberto Reggi, c'è il senatore Domenico De Siano. Allora, gliela rifaccio questa domanda, senatore. Lo so che, non, che dal punto di vista della Costituzione lei potrebbe essere adesso tutto a posto, visto che ha rinunciato al Consiglio regionale della Campania. Ma perché sì. fa tutti questi lavori? Cioè, come allora, fa? Allora, vede, io sono consigliere, allora mi deve dare un attimino di tempo per poter rispondere in maniera compiuta. Io sono consigliere comunale in un comune al di sotto di 5.000 abitanti, sì. è il comune dove vivo, dove sono nato, dove ho fatto il sindaco per tanti anni, quindi dal punto di vista affettivo c'è diciamo, un legame estremamente forte, ma al di là di questo, diciamo, poiché sono profondamente conoscitore, perché sono tanti anni che vivo e ho fatto politica, ho iniziato sì. a fare politica in questo comune, quindi sono conoscitore di quella che è la realtà amministrativa e quindi credo in maniera del tutto gratuita di poter apportare un contributo a quello che è il mio comune. Sì, anche perché il legame affettivo uno può esprimerlo non stando in consiglio comunale. Comunque, ma anche non stando in consiglio comunale, ma lo può esprimere in tanti modi, stando in consiglio comunale, non standoci e quant'altro. Ma vedi, tra le altre cose, in maniera del tutto tranquilla, con quelli che sono i miei compagni d'avventura nell'amministrazione comunale, sì. decideremo tranquillamente se poter dare, e io auspicherei una cosa del genere, la possibilità a qualcun altro che subentri al posto mio. E in consiglio provinciale? Tante volte bisogna anche tenere presente e verificare quelle che sono le realtà locali per non creare delle fibrillazioni che possono essere... diciamo dannose. No, vabbè, adesso non mi dica che ci sono le fibrillazioni se lei lascia il consiglio comunale dell'acqua a me. Nel momento in cui io mi dimetto, si potrebbero creare delle fibrillazioni perché non tutti capiscono e comprendono quella che è una situazione che io conosco bene. E in consiglio provinciale? Io sono stato eletto consigliere provinciale sì. nel 2009 quando sì. non ricoprivo alcuna carica. Ho capito, ma scusi senatore, mi dica la sua settimana come è composta. Lunedì lei cosa fa? No, guarda, io faccio da quando sono stato eletto senatore, faccio il senatore a tempo pieno perché le ripeto, l'impegno in amministrazione nel mio comune è un insieme del tutto marginale perché sì. basta prendere il caffè al bar in un comune di sotto i 5.000 abitanti, quando c'è un'amministrazione tranquilla, un'amministrazione unita. Si dialoga e si discute ci sarà una delibera da leggere ogni tanto, chi se ne frega, dice basta il caffè al bar. No, nella maniera più assoluta, vado a vedere gli atti, vado a vedere quella che era la realtà di un comune che ho amministrato per tanti anni come sindaco e che oggi amministra un'amministrazione. Lo conosce a menadito, basta il caffè al bar. Vedo dottore, in politica come nella vita contano i fatti anziché le chiacchiere. No, ma è chiaro, ma scusi, il consiglio, però lei ha detto, inutili, capisce? Lei ha detto, vado a vedere lo stato del mio comune e verifichi se effettivamente può essere un comune. Però senatore, lei dice faccio il senatore a tempo pieno, il consigliere provinciale a Napoli quando lo fa? Allora vede, il consiglio provinciale fino a qualche mese fa c'erano in Italia diversi casi di deputati e senatori che erano anche consiglieri, che erano anche presidenti di provincia. Certo. Nessuno si scandalizzava. Io siedo in consiglio provinciale, tra l'altro un consiglio provinciale in scadenza perché nel 2014 termina il mandato amministrativo del consiglio provinciale. Tra l'altro non c'è, diciamo, è un'attività che sta andando a conclusione perché tra qualche mese si potrà andare a votare, quindi ripeto, io rappresento quella che è un collegio elettorale all'interno della provinciale e lo vado avanti. Sì, però senatore, l'unica cosa misteriosa è che non riesco a capire lei come faccia a fare tutte queste cose. Se le vede, diciamo, le convocazioni di consiglio provinciale e le presenze dei consiglieri provinciali, si accorgerà che io, a prescindere che ci sono uno tra i più, diciamo, va bene, presenti. Però senatore, sarà almeno d'accordo che ne so, siccome lei non ha il dono dell'ubiquità, ci mancherebbe altro, dovesse esserci una convocazione di una commissione al Senato dove lei c'è e contestualmente il Consiglio Provinciale di Napoli, qualcosa dovrà pur rinunciare a qualcosa. Io auspicherei che in questo momento possa esserci un governo e possano partire le commissioni e si possa, anziché fare tante dichiarazioni inutili, iniziare a lavorare per il paese. Questo sì. Perché quello che veramente la gente chiede è di essere governata in questo paese. Comunque, insomma, io senatore la ringrazio. Adesso vediamo grazie, senatore Domenico De Siano. Allora, non so se Reggi De Girolamo, tra l'altro è campano come lei, era a conoscenza di questa situazione. Insomma, lo conosce il senatore De Siano? È uno che sì, lo conosco. Combattivo, Sì, no, no, è anche uno che lavora moltissimo. Ma non c'è dubbio, però insomma, come e si io fa? Ho accolto favorevolmente il fatto che sia lui che Eva Longo si fossero dimessi dalla carica di consigliere regionale, perché penso che sia assurdo rivestire entrambi i ruoli. D'altra parte, mi avrebbe fatto piacere chiedergli se, come leggo, è vero che De Mita faccia ancora il vicepresidente addirittura della regione Campania. Pare di chiedo sì. Come si... Ma mi chiedo questo, come sia possibile? Noi siamo una regione in difficoltà enorme a causa dei governi precedenti. Mm. Abbiamo risanato adesso i debiti nella sanità andando in pareggio di bilancio. Come può una persona fare il deputato e il vicepresidente di una regione così delicata, grande, particolare come la Campania? Ecco, questi casi purtroppo rischiano di allontanare i cittadini dalla politica, perché è evidente che se uno viene eletto parlamentare deve fare il parlamentare. Fa quello, no, ma infatti c'è, cioè, dal punto di vista poi della legge può fare il consigliere all'acqua meno, può fare il consigliere provinciale, però insomma dal punto di vista dell'opportunità forse dà un'idea di uno che vuole stare attaccato un po' troppe poltrone. Ma no, conoscendo Tiziano, no. Onestamente penso di no, cioè, almeno per quello che io lo conosco e l'ho conosciuto all'interno del partito, mi sembra uno abbastanza dedicato al proprio territorio, quindi credo alla buona fede. Poi purtroppo, evidentemente, avendo avuto sempre esperienze provinciali, non si rende conto del carne mediatico nel quale può incorrere a livello nazionale, per quanto le sue dichiarazioni rischiano di essere un po' ingenue rispetto, diciamo, ai meccanismi della comunicazione. No, vabbè, però le fibrillazioni all'acca meno non sono male, cioè l'idea obiettivamente sono sicuro che lui alla fine sarà dovrà fare una scelta, perché d'altra parte è così, e sono certa che sarà il senatore basta. Questo sì. Roberto Reggi, non so se su questo vuole commentare, però io non lo conosco, ma mi sembra che rappresenti un difetto molto italiano, quello di considerarsi sempre indispensabili in posizioni che possono essere tranquillamente, secondo me, occupate da altre, magari più giovani, che possono portare un po' di rinnovamento, no? Invece sono tanti politici, non solo De Siano, che pensano di essere indispensabili e la loro mancanza creare chissà quali sconquassi politici o planetari. Fibrillazione. Di gente indispensabile sono pieni i cimiteri, no? L'ultima cosa, che ho 30 secondi, Reggi, ma Renzi vuole andare a votare? Allora, perché pare che ha detto, forse per me bisognerebbe andare a votare il prima possibile. Questa cosa gli votare italiani... però con la nuova legge elettorale, ma mi sembra che l'equilibrio di posizioni, di forze in campo non consenta di mettere in piedi un governo stabile di cui questo paese ha assolutamente... Ma anche a luglio, cioè gli italiani a luglio vogliono andare in vacanza. No, ma io credo che per cambiare la legge elettorale a luglio non sarà possibile, quindi bisognerebbe andarci in autunno, dopo aver cambiato la legge elettorale, aver messo mano alle questioni più urgenti come la cassa integrazione in deroga e tutte quelle questioni che toccano la vita dei cittadini, quelli più fragili. Gli italiani non vedono l'ora di andare a rivotare. Ma l'ho capito, però il problema è che siamo in una situazione di stallo che... Con una nuova legge elettorale e magari qualche candidato premier un po' diversi da quelli che si sono presentati, parlo sia di Bersani che di Berlusconi, magari qualche cosa di diverso può cambiare. Intanto staremo a vedere. Vi ringrazio, onorevole Nunzia De Girolamo del Popolo della Libertà e Roberto Reggi del Partito Democratico. Ci fermiamo qui e l'appuntamento, potete seguirmi anche su Twitter, Alino Milan, sono io, 24 mattino la trasmissione. E che dire, ci ritroviamo domattina alle 6:30? Sì, domattina alle 6:30. Puntuali con l'alpino Peter Bescapè in regia. Ci siamo? C'è la sigla? Bene, a domani.